Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. C'è il diabete di tipo 1, quello di tipo 2, c'è una forma intermedia che ha caratteristiche di entrambe. Il diabete autoimmune latente dell'adulto, chiamato LADA. Un lavoro frutto di una collaborazione fra la Sapienza e l'Università di Oxford, pubblicato su Lancet Diabetes ed Endocrinology, suggerisce l'importanza di riconoscere precocemente la patologia per prevenire le conseguenze più gravi, soprattutto nelle fasi avanzate della malattia. Ad Obiettivo Salute la professoressa Raffaella Buzzetti del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università La Sapienza di Roma. Professoressa, buongiorno. Buongiorno. Quali caratteristiche ha questo tipo di diabete? Il LADA rappresenta circa il 5-10% di tutte le forme di diabete. Per definizione si manifesta dopo i 30 anni e ha caratteristiche di entrambe le forme. In quanto alla diagnosi, il paziente può essere simile o addirittura uguale al classico diabete tipo 2 in sovrappeso o obeso, ma ha un marcatore in realtà sierico nel sangue caratteristico invece del diabete di tipo 1 autoimmune. Sono gli autoanticorpi che vengono effettuati in laboratori specifici, noi qui al Policlinico li effettuiamo, ma non in tutti gli ospedali, e riteniamo che sarà in futuro opportuno effettuarli dappertutto, proprio perché ci permettono di diagnosticare questa forma di diabete e differenziarlo quindi dal diabete di tipo 2, al quale fenotipicamente assomiglia e dal quale è difficile distinguerlo alle volte. Importanti sono le complicanze di questa forma di diabete. Riconoscere prontamente la patologia può essere quindi fondamentale per prevenire le conseguenze più gravi, soprattutto nelle fasi avanzate della malattia, quanto suggerisce lo studio in collaborazione tra la Sapienza e l'Università di Oxford, e in linea abbiamo il dottor Ernesto Maddaloni, primo autore dello studio. Dottor Maddaloni, buongiorno. Buongiorno a lei. Nello studio, infatti, abbiamo dimostrato che il LADA non viene spesso riconosciuto e quindi viene trattato come il diabete tipo 2. Questo risulta in un controllo delle glicemie peggiore per questi pazienti e quindi a lungo termine in un maggior rischio di sviluppare i classici danni del diabete agli occhi fino anche alla cecità o ai reni fino addirittura alla dialisi. Al contrario, nello studio abbiamo dimostrato che un pronto riconoscimento potrebbe consentire di attuare delle terapie adeguate e quindi prevenire nell'ADA un maggior numero di complicanze. E per oggi è tutto, la programmazione di Radio 24 prosegue con me, io vi aspetto tra poco per la diretta Facebook tutta dedicata ai nostri bambini insieme al professor Lelio Morricone. Vi aspetto, non mancate, una buonissima giornata da Nicoletta.